37 lavoratori in nero, non in una società qualunque, ma in un'azienda controllata al 100% da Poste Italiane. La storia è questa: una visita degli ispettori del lavoro ha verificato la presenza di lavoratori in nero in cooperative e società che lavorano per la SDA Express, che effettua consegne per conto di Poste Italiane. Nel mirino non i dipendenti diretti della SDA, ma di tutte quelle società esterne alle quali la società appalta la consegna di pacchi e pacchetti, insomma fisicamente chi fa il lavoro per cui la SDA Express esiste. Gli ispettori hanno trovato 37 persone senza lo straccio di un contratto, altre che ricevevano 2/3 della retribuzione sotto voci come trasferta e diaria, voci non tassabili. Così in un sol colpo si evadevano contributi previdenziali e IRPEF. Insomma, in un'azienda controllata da Poste Italiane si favoriva direttamente o indirettamente l'impiego di personale in nero. D'altra parte, SDA Express paga 130 euro al giorno per corriere, quando per legge i costi delle gare d'appalto non dovrebbero scendere sotto i 200. C'è dell'altro. SDA Express dal lunedì rileverà alcuni rami d'azienda italiani dall'americana UPS, leader fra i corrieri internazionali. UPS fino ad ora ha richiesto ai fornitori l'esibizione del DURC, la verifica dei contratti di assunzione, pretendendo non solo il rispetto delle procedure interne, ma anche la qualità dei collaboratori delle aziende appaltatrici. Adesso si rischia tutta un'altra musica. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.